un candidato, il centrosinistra, in realtà l'ha portato alla vittoria, sull'onda di uno spot di questo tipo. Mister Weekend ci ha mandato il messaggio. Un culo sudoka reghe ne ha mandato il messaggio. Che lui può prendersi quello che vuole. E il poltorse è quello che il vuole. E nessuno lo può fermare. E nessuno lo può fermare. Ma noi manderemo il nostro messaggio. Gli altri manderemo il nostro messaggio. Volantinate veloci da Mestre a Venezia. Muoveve coi volantini. E dite alla coalizione di venire. E di Seghe, a Bettini, a Bergamo, de venire. Dite loro che Giorgio Orsoni li chiama a raccolta. Dite che Giorgio Orsoni li chiama tutti. E ora voterete per me. E adesso voterei per me. Miei fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. E noi faremo vedere a Mr. Weekend. E faremo vedere al culo sudocareghe. Che non può prendersi quello che vuole. E non il poltor se quello che è il volo. Perché questa terra. Perché questa terra. Questa terra è nostra. È nostra. Forza. Forza Pioi. Forza. Vai. Giorgio Orsoni, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Le abbiamo portato un po' fortuna. Io ero molto scettico, gliel'avevo espresso qui qualche settimana fa. Pensavo non ci fosse partita, non avevo capito assolutamente nulla. Lei invece era tranquillo, cioè i suoi. Io qui ho i miei sondaggi, eccetera. Alla fine ha avuto ragione lei. Tanto di cappello, che le devo dire? Ma è così, è andata così. Ma questa roba qui che abbiamo sentito. Sì. Dove è andata in onda, da qualche parte, oppure è circolata solamente su internet? Ah, guardi, non lo so, l'ho vista anch'io su internet. Dunque solo su internet, è una cosa preparata, diciamo, da internettiani, di sì. Cioè non dal suo comitato elettorale. No, io l'ho trovata anch'io. Bella però, non è male. Ma credo che alla fine, come sempre, gli artisti interpretano le cose della vita in modo corretto. Cioè il Mr. Weekend è stato respinto perché voleva proporsi come Mr. Weekend? Ma sì, perché tutto sommato il messaggio che ha dato, credo in modo sbagliato, è stato quello che Roma si sarebbe occupata di Venezia, si è proposto in qualche modo come una specie di proconsole romano che veniva a governare Roma e Venezia. E invece i veneziani niente. Insomma. Beh, insomma, sai, i veneziani, come si suol dire, sono sempre l'altra Roma. I veneziani hanno respinto la scomunica del Papa, e i veneziani hanno un senso della libertà e della indipendenza molto spiccato.